Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, congratulazioni vivissime a Leo Messi per il terzo pallone d'oro consecutivo. Nella storia del calcio c'era riuscito soltanto Michel Platini. Dal mio punto di vista è un pallone d'oro più meritato del precedente, che forse Xavi o Iniesta avrebbero maggiormente meritato. Parliamo di una stagione in cui c'era stato il campionato mondiale e Xavi e Iniesta erano stati assai più protagonisti, decisivi per la Spagna di quanto Messi non lo fosse stato per esempio per l'Argentina, al netto delle prestazioni del Barcellona. Che ne pensa il ministro degli esteri Fabio Tavelli? Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Ma sai, io pur rimanendo sempre abbastanza freddo nei confronti di un premio individuale a uno sport di squadra, yes, credo davvero che non ci fosse possibilità di un voto diverso, di quest'anno un giudizio no. Diverso. Quest'anno francamente no, non c'era neanche poi la possibilità di appigliarsi alla nazionale, per cui credo che insomma sia, cioè, quando Messi vince un premio individuale secondo me è sempre legittimo, perché sì, comunque la sua caratura è talmente elevata, è talmente diversa, ma sottolineo diversa, per cui stiamo davvero parlando di un giocatore diverso, che va bene così, insomma, nel senso che poi si riaprono, vedo quotidianamente o costantemente i dibattiti, era più forte uno, era più forte l'altro, che altro dibattito che non appassiona tantissimo, e quindi va bene, cioè se la pietra di paragone sono Pelé e Maradona, credo che non si aprirà mai un dibattito se Xavi o Iniesta sono più forti di Pelé e Maradona, certo. E quindi è tutto che vinca Messi. Messi ha ottenuto quasi il 50% dei voti contro il 21% di Ronaldo e il 9% di Xavi, poi gli altri seguono a grande distanza e anche questo qualcosa significa. Poi ci sono state, come da un paio d'anni, da quando Blatter e la FIFA si sono annessi questo trofeo, ci sono state molte altre premiazioni, molti altri podi, no? da allenatori, tecnici, calcio femminile, insomma di tutto e un pochino anche di più, a parer mio. Sì. Che cosa di significativo in particolare? Ma io sinceramente ho pensato molto stamattina alla presenza di Farina, sì. Gigi, che mi è sembrato il vero elemento diverso. Adesso Blatter ha questa tendenza al gigantismo, per cui credo che poi il premio sia diventato un po' qualcosa di diverso rispetto a quella che era la classica cerimonia, anche un po' kitsch, che faceva Fran Football con le foto della mattina prima, con la premiazione, sì, riservata. Vabbè, e comunque quello è evidentemente il passato. No, io sinceramente ho pensato alla presenza di Farina leggendo l'intervista a quell'altro giocatore che aveva denunciato qualche mese fa una tentata con Bin e che legittimamente si è un po' lamentato il fatto di non essere stato trattato come Farina. Sì, ti interrompo un attimo. Fabio Pisacchiare, difensore della Ternana, che voi di Sky stamane avete intervistato, e dopo manderemo in onda un frammento di questa sua conversazione, proprio perché è interessante come cosa. Non l'ho vista perché oggi non lavoro, però conosco abbastanza la sua vicenda e credo sinceramente che Farina sia classico esempio di scuola nel quale è l'uomo giusto al momento giusto, sì, nel senso che la sua vicenda è capitata proprio nel periodo a tiro di una premiazione, era l'occasione per sfruttare in questo caso positivamente un comportamento buono, che è normale, però io sinceramente vorrei che la si smettesse di insistere su questa cosa, cioè ha fatto la cosa giusta, sì, va bene, però quanti non la fanno, e quindi in questo caso Farina è comunque degno di encomio, anche se ha fatto una cosa normale, visto che la cosa normale sembra diventata molto complessa e complicata da fare da parte di tutti, e quindi mi è sembrato questo l'elemento, cioè che la voglia da parte degli organismi internazionali di porre un comportamento normale e comunque positivo, evidentemente positivo, a sostegno di una lotta che è una lotta che comunque FIFA e UEFA fanno da anni nei confronti di chi tarocca le partite, da chi ci scommette, certo, illegalmente e tutto il resto. No, ma ha avuto un senso e come da parte di Blatter e poi anche di Platini questo invito e queste parole che hanno speso per Farina, perché per l'appunto, come hai giustamente ricordato, FIFA e UEFA sono molto ma molto preoccupate, per non dire terrorizzate, da anni dal dilagare il fenomeno scommesse, e quindi l'annessione del milite ignoto italiano che dalla Serie B denuncia una combine era un'occasione per loro imperdibile. Poi tante altre riflessioni sono non solo lecite, ma sono anche le benvenute. Tra poco vi leggerò poi quelle di Massimo Gramellini sulla copertina della Stampa di stamane, a parer mio eccellenti come sempre, fino a produrre, no, non Gramellini, fino a produrre la partecipazione straordinaria di Farina ieri sera, caro Fabio, a parer mio un paradosso, e cioè nel giorno in cui Damiano Tommasi la mattina apre l'incontro con arbitri, capitani e allenatori con un appello ai capitani, un appello forte, dicendo ragazzi prendiamo esempio davvero la Farina perché qui la situazione è grave, e quindi è da calciatore a calciatore questo appello, subito dopo comincia a girare un video, un video che sappiamo, quello che riguarda De Santis, che tra l'altro era presente all'appello di Tommasi in quanto facente funzione di capitano del Napoli, e poi alla sera arriva la presenza di un italiano a Zurigo, alla cerimonia del Pallone d'Oro, che è una presenza assolutamente paradossale, perché mentre il calcio italiano è alle prese con queste vicende e questi sospetti e magari anche queste calci alle streghe, l'immagine che dà invece in campo internazionale e mondiale è che l'unico partecipante italiano al Pallone d'Oro lo è, non per ragioni tecniche ma morali. Qua è difficile, la sintesi è complicatissima, perché c'è un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto negativo è che il campionato italiano evidentemente non sa esprimere giocatori di questa caratura. Secondo me non è così, io penso che un giocatore come Ibrahimovic sia un'espressione molto molto alta e ci possa stare abbastanza vicino ai livelli dei top player di cui abbiamo parlato prima, non allo stesso livello ma abbastanza vicino, insomma dignitosamente vicino. Una cosa che mi va di dire è questa, cioè quando sento dire dovete fare come Farina, cioè dovete denunciare, va benissimo, però io credo che il primo messaggio sia siate onesti, cioè non taroccate le partite, certo. Perché un conto va bene la banda degli slavi, come li hanno chiamati, degli zingari e quant'altro, e quelli sono malfattori con i quali è difficile, cioè il verbo è molto diverso da utilizzare. Ma il vero messaggio che va dato ai calciatori è evidentemente sì quello di denunciare, ma di denunciare quando sono gli zingari ad avvicinarti, ma il vero messaggio è di non scommettere, certo. O di non, se non si scommette direttamente o indirettamente, perché è chiaro che il calcio è legato a mani e piedi alle agenzie di scommesse. Se tu consideri che la nazionale, la Football Association, fa un accordo di sponsorizzazione con William Hill, che è uno dei broker, dei bookmaker più importanti dell'universo. A quel punto lì, però, se tu puoi scommettere anche su chi batterà un calcio d'angolo prima di un altro, capisci che questo è pericolosissimo, perché questo non va a cambiare il risultato di una partita, o tendenzialmente può anche non cambiarlo. Cioè, non integra l'illecito sportivo, no? No. Integra però una cosa scorretta, però una condotta scorretta. Ma si capisce. Torniamo in collegamento con Fabio Tavelli, il nostro ministro degli esteri. Dalla cabina di regia, Franco Piantanida mi segnala che andando a esaminare le votazioni dei singoli, come capitano della Svezia ha votato Ibrahimovic, e Ibrahimovic come miglior allenatore ha votato Pep Guardiola. Quello che, a leggere il suo libro, insomma il suo libro è una parola grossa, ma insomma a leggere quello che gli hanno raccolto, no, di recente, che ha avuto un grande successo editoriale, Guardiola mi sembra che fosse un incapace, un vigliaco, quello che gli diceva le cose in faccia, eccetera. E allora perché l'ha votato? Sì, è curioso, perché uno si aspettava un voto a Mourinho, evidentemente, visto che pare che nella biografia lui abbia scritto, insomma, tu di fronte a Mourinho te la fai addosso, tutte queste cose. No, non lo so sinceramente poi sul perché si raccontino certi particolari o sul perché si esprimono certi voti, sì. Io ho abbastanza rinunciato a fare delle analisi, certo. Penso che siano delle cose emotive che vengono o scritte in un momento particolare oppure che la votazione viene fatta un po' così, però insomma, se Ibrahimovic di suo pugno ha scritto il nome Guardiola su quel foglio, non so se la votazione fosse telematica o amanuense, è abbastanza curioso, magari glielo chiediamo. Indubbiamente, dai, i figlioli prodighi della Premier League, allora uno, tutte e due in Coppa, uno domenica e l'altro ieri, raccontaceli tutti e due. Ma guarda, io penso questo, che la differenza tra Paul Scholes e Thierry Henry ci sia e sia evidente e si sia anche vista nel rendimento, nel senso che Paul Scholes aveva abbastanza smesso di giocare, è stato richiamato da Ferguson che è alle prese con tutta una serie di infortuni, Scholes è anche un leader emotivo oltre che calcistico di un Manchester United probabilmente irripetibile o comunque una delle migliori produzioni da parte di Alex Ferguson. Henry in realtà giocava ancora nelle Major League americane e ha utilizzato la possibilità che come fece Beckham e come probabilmente Beckham vuol fare di nuovo di giocare in Europa durante la pausa del campionato americano. Si è visto perché mentre Henry ha avuto un approccio subito agonisticamente importante e tecnicamente poi decisivo, perché lui ha segnato il gol della vittoria, quindi c'è anche un aspetto quasi romanzesco, certo. La presenza di Scholes nel derby di Manchester è stata una presenza un po' più complicata, diciamo che il grande Paul Scholes è un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto domenica in FA Cup, anche se e poi il Manchester United la partita l'ha vinta e lui comunque ha fatto una parte dignitosa, però solo dignitosa, ecco, non pensiamo che Scholes possa diventare un fattore o quantomeno non lo è ancora, poi se diventasse un fattore io credo che sono più gli aspetti negativi che quelli positivi. Io devo fare ammenda perché quando poi arrivò la notizia della possibilità che Henry firmasse questo contratto, dissi anche in televisione che in un posto dove c'è una statua che è stata eretta per te non ci devi tornare a giocare perché le statue non giocano più, e invece poi le statue fanno anche gol perché Henry ha dimostrato ieri sera che è tutt'altro che una statua. Però io ovviamente non la ponevo da un punto di vista fisico, la ponevo da un punto di vista di rispetto per il proprio passato. Però insomma, Henry ha fatto più di 200 gol con la maglia dell'Arsenal, ne ha fatto uno in più che consente all'Arsenal di passare un turno di FA Cup e quindi ha evidentemente ragione lui e ha evidentemente ragione chi gli ha fatto firmare questo contratto. E se vogliamo proiettarla sul piano della cronaca, tra un mesetto circa sarà ancora in forza all'Arsenal quando l'Arsenal se la vedrà con il Milan in Coppa dei Campioni e dopo ieri sera, anziché un'operazione di retroguardia come fu a suo tempo, a parer mio, quella del Milan con Beckham, rischia di essere invece un'operazione che può incidere. Sì, ci sono delle significative differenze. Quella di Beckham fu un'operazione di retroguardia, un'operazione da 6, nel senso che Beckham giocò sempre in maniera molto, molto ordinata, decorosa, per carità. Mm-hmm. Non fece mai danni, però Beckham non era mai stato un giocatore del Milan, mentre Scholes e Henry sono state delle colonne portanti delle migliori stagioni quindi cioè, sarebbe come se tornasse a giocare, fammi dire, Paolo Maldini, anche se poi è passato più tempo. Sì. Per Paolo Maldini nei confronti di Paul Scholes, mentre invece, ripeto, Henry è ancora effettivamente uno che gioca, anche se poi lo fa in un campionato diverso, un campionato evidentemente minore. Fabio, quando tornano Germania e Francia? Credo che ormai anche per loro le vacanze siano finite. Sì, vacanze finite. Beh, intanto questa è una settimana ricchissima di coppe, perché gli inglesi, che sono dei pazzi assatanati, oltre ad aver santificato la FA Cup nel weekend, adesso hanno le semifinali di Carling Cup, e quindi tra l'altro hanno Manchester City contro Liverpool, gara d'andata, che mi sembra già un discreto test per Roberto Mancini. C'è la Coppa del Re con il Real Madrid in campo questa sera, e tra l'altro gioca contro il Malaga dopo aver perso all'andata, mentre invece il Barcellona aveva battuto l'Osasuna. E poi loro hanno, poi magari della Liga parliamo più diffusamente la prossima settimana se vuoi. Nel fine settimana riprende la Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, che gioca una partita in casa contro il Tolosa dopo aver battuto una squadra di quinta serie, l'Aubigné, che tra l'altro abbastanza giocato meglio del Paris Saint-Germain, e il Paris Saint-Germain ha segnato al 92esimo il gol che ha evitato i supplementari. Ricomincia venerdì la Bundes con il Bayern di Monaco che gioca a Mönchengladbach contro il Borussia, in un match che ha anche degli agganci storici importanti, insomma, per chi vede il calcio da un po' di anni, il Borussia Mönchengladbach è sempre comunque una formazione che dà dei brividi. Non c'è dubbio, è vero, questo me l'ero dimenticato nell'agenda di oggi, che tutto è bene perché finisce bene, parlando di Carletto Ancelotti, ma ha rischiato un debutto veramente tragico. Perché... sarebbe stato tragico, sinceramente. Sì. Comunque, perdonami, Carlo ha solo da perdere in questa stagione, nel senso che se vince il campionato chiunque potrà dire che l'avrebbe vinto anche con Boaré, se vince la Coppa sì, va bene, bravo, però è chiaro che l'arrivo di Ancelotti è un arrivo che è proiettato verso l'anno prossimo, verso la Champions League e tutto il resto, quindi per quest'anno ci sono solo rischi. Non c'è dubbio, grazie Fabio. Grazie a te Gigi, buongiorno a tutti. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24 con Fabio Tavelli e in attesa dei vostri interventi volevo farvi sentire per l'appunto quell'intervista, un frammento di quell'intervista mandata in onda stamane per l'appunto da Sky a Fabio Pisacane, difensore di 25 anni che gioca nella Ternana, che lo scorso anno era a Lumezzane, ricevette una telefonata da Giorgio Buffone, nomen omen, no? Di S del Ravenna, che gli propose 50.000 euro, e cioè molto più di metà dello stipendio, leggo dalla Gazzetta, annuale di questo giocatore, di Pisacane, per taroccare la partita. E lui fu il primo, cronologicamente, prima di Simone Farina, a denunciare l'accaduto. Sentiamo Pisacane. In Lega Pro ci sono tanti giocatori che si sarebbero comportati come me, e Simone è l'esempio lampante di quello che ho detto. È normale che però bisogna trovarsi nella situazione, abbiamo trovato il coraggio per denunciare tutto. E qui si passa, per aver fatto due cose normalissime, si passa per eroi. Non vorrei che questo, gli eroi sono altri, non vorrei che questo gesto passasse da eroe. Noi abbiamo fatto due cose normalissime che però ci fanno pensare tanto, perché significa che il nostro calcio, specialmente in Italia, non stia attraversando un buon momento. Questo per tutti quei bambini che corrono dietro una palla sperando di coltivare un sogno pulito, ecco. Già, non è un gran momento, è un momento in cui anche gli editorialisti, non sto parlando di sportivi, si mobilitano. Dal buongiorno di stamane di Massimo Gremellini, la deliziosa rubrica sulla copertina della Stampa, ecco una buona lettura di giornata. Simone Farina è un calciatore di Serie B che ha rinunciato a 200.000 euro per truccare una partita denunciando il tentativo di corruzione alla magistratura. Un cittadino esemplare, si sarebbe scritto una volta, ma adesso a fare il proprio dovere si diventa direttamente eroi. L'eterno presidente del calcio mondiale Joseph Blatter lo ha nominato ieri ambasciatore del fair play, che è come se Lady Gaga assegnasse i certificati di castità alle orsoline. Intendiamoci, nessuna intenzione di sminuire la portata dell'evento. In questa fase di convalescenza dal bunga bunga, la nostra immagine internazionale necessita di una lucidata e nulla può smacchiarla in profondità meglio di un esempio di serietà e pulizia. Eppure qualcosa di stonato c'è, non in Farina, che sembra anzi il più imbarazzato di tutti, ma in coloro che lo esaltano come un essere sovrumano, con ciò ammettendo implicitamente che i comportamenti onesti non rappresentano più la normalità, ma l'eccezione. Di questo passo cominceremo a premiare il politico che non ruba, lo sportivo che non si dopa, l'impiegato che non si mette in mutua per andare a fare la spesa, il cassiere del bar che strimpella sinfonie di scontrini, l'automobilista che si arresta davanti alle strisce, il genitore che dà ragione all'insegnante invece che al pargolo, il banchiere che presta soldi a un giovane promettente invece che a un altro banchiere. Sventurato il popolo che ha bisogno di eroi, sosteneva Brecht e non conosceva ancora Blatter. Massimo Gremellini, ripeto, dalla stampa di stamane. Completiamo arricchiamo ancora il panorama di giornata con la presentazione a Parma del nuovo allenatore Donadoni. Comincerò da oggi a lavorare e a prendere coscienza di quella che è questa realtà di Parma, e quanto più velocemente possibile, senza sprecare tempo, perché veramente il tempo è preziosissimo, portare quelle che sono gli accorgimenti che riterrò più opportuni affinché questa squadra possa riprendere una marcia, un ruolino importante, perché c'è ancora tanta strada davanti, ci sono tanti margini di miglioramento e c'è tanto veramente da fare, e questo è estremamente stimolante. Ha scritto un ascoltatore da Parma, si chiama Davide Sani, e non è d'accordo con la decisione di non tanto di ingaggiare Donadoni ma di esonerare Colomba. Scrive: dopo 17 giornate con una squadra che ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, perché si deve perdere di vista la realtà e calpestare il buon senso? A Colomba hanno tolto quest'estate le prestazioni di Gemaili e di Amauri senza rimpiazzarle adeguatamente. Floccari è un buon giocatore che non ha mai fatto più di 10 gol a stagione. A centrocampo si puntava su Galloppa per tornare ai livelli pre-infortunio, per il momento non è stato così. Ma cosa si pretende? Cosa si pretende? Evidentemente molto di più, se è vero che il presidente del Parma con lo scalpo di Colomba è arrivato a quota 10 allenatori in 5 anni, a proposito di programmazione in profondità. Mentre arrivano, sono in retta d'arrivo i vostri primi interventi, volevo segnalarvi ancora quest'altra statistica di Franco Piantanita, che ormai vive praticamente di numeri e spererei che non cominci a darli, no? nel giro magari di poco. Questa è molto carina, perché il pallone d'oro a Messi ha fatto sì che il Barcellona abbia superato nella classifica dei palloni d'oro, per quel poco che può valere, niente meno che Milan e Juventus, che erano al comando. E cioè, fino ad ora nella storia del pallone d'oro, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il Real era a quota 7, Milan, Juventus e Barcellona erano a quota 8. Adesso questo di Messi li porta a 9, dopo Luisito Suarez nel 60, nel 73-74 Cruyff, nel 94 Stoichkov, nel 99 Rivaldo, nel 2005 Ronaldinho e adesso 2009-10-11 Leo Messi. Da notare che sarebbero stati 11 in realtà i palloni d'oro del Barcellona, ma Ronaldo nel 97 e Figo nel 2000 levarono il trofeo quando già indossavano le maglie dell'Inter rispettivamente e del Real Madrid. Lucio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno e salve, anzitutto complimenti per la sua azione. Volevo fare un tuffo nel passato collegandomi ai 3 palloni d'oro di Messi, e cioè ricordare che allora, nonostante, senza togliere nulla alla grazia di Platini, era aperto soltanto agli europei, credo che avrebbe avuto qualche chance se... Maradona almeno un pallone d'oro, se non un paio, magari pure di più li avrebbe vinti. Sì, certo, Diego Maradona almeno un pallone d'oro, se non 2 o 3 li avrebbe vinti di sicuro, ma allora non si poteva votare per gli extraeuropei. La linea rischiava già prima, Lucio, era un collegamento precario, però il concetto è chiaro, cioè non dimentichiamo Maradona, soprattutto adesso che... inevitabilmente, no? questo trio consecutivo di Messi porta sempre più ad autorizzare paragoni impegnativi come quelli con Maradona per caratteristiche, ma anche per lei come grandezza assoluta. Poi non si può dimenticare, anzi va sempre tenuto presente, che Messi ha 24 anni e che se riesce a non smarrirsi per strada, cosa che sembrerebbe abbastanza improbabile visto il carattere del ragazzo, come si dice in questi casi, insomma, probabilmente lo porterà, certamente lo porterà ancora più lontano, poi vediamo fin dove. Salvatore ha chiamato la Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io desideravo, non so l'argomento, io volevo parlare di calciomercato, ma non nel senso, come regola. Io ritengo che sia incompatibile fare il calciomercato in questo periodo, così come è vietato e incompatibile che un giocatore che faccia i preliminari con una squadra, se fa i preliminari di UEFA non può più giocare, eccetera eccetera, sappiamo questa regola in campo UEFA europeo. Perché il giocatore italiano non è incompatibile che passi da una squadra nello stesso anno all'altra, nello stesso anno calcisticamente parlando? È che il calcio non è più una cosa seria, caro Salvatore, il calcio è un business e in questo business più trasferimenti ci sono e più ci sono mangiatoie aperte, più ci sono possibilità di piantare i dentini sotto forma di percentuali varie da sortite sui giocatori. Mi sembra di un'evidenza solare questa cosa. Lei ha perfettamente ragione. Insomma, sarebbe tanto più logico se si gioca un campionato, sì, fantastico. Per quel campionato la rosa viene allestita entro il mese di agosto. Un tempo c'era addirittura, e c'è ancora, la possibilità del mercatino di riparazione a novembre in caso di infortuni iniziali, in caso di cose, ma insomma ridotto al minimo, ridotto all'osso, e poi per quell'anno si gioca con quella squadra lì e l'anno dopo eventualmente la si cambia. Questo significherebbe stabilità, significherebbe maggiore valore alla programmazione, significherebbe dover probabilmente ricorrere più spesso ai giovani del vivaio, eccetera, eccetera. E tutto questo è incompatibile con il calcio di oggi, che invece è soltanto ed esclusivamente business. Il calcio di oggi e i media che lo circondano, perché se lei apre i quotidiani sportivi, due in particolare, e vede quanto spazio dedicano al mercato vero e soprattutto fasullo, insomma, lei capirà che la sua proposta è leggermente, temo, fuori dal tempo, purtroppo. Tino ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ma la mia considerazione era molto semplice. Prima lei si chiedeva come mai Farina viene considerato un eroe. Dopo due minuti mi dice che un personaggio presentabilissimo, per carità, come Ghilardi, si è mangiato 10 allenatori in 2 anni. Cioè, la risposta sul caso Farina è molto semplice, perché il nostro calcio è un ambiente, e qui mi prendo io le mie responsabilità su quello che dico, dove bazzicano personaggi come il presidente del Genoa, Preziosi, come il presidente del Palermo, Zamparini, e come il presidente del Cagliari. Questi sono i prototipi, diciamo, dei padroni del vapore, e quindi il risultato è che poi Farina diventa un eroe. Sì, magari è un po' tirata, se vogliamo, ma che sia del tutto infondata dal mio punto di vista certamente no. Io sono più per la tesi Gramellini, e cioè che è la nostra società che ha dei insomma, che genera, no, questi eccessi. La società in generale, non soltanto quella calcistica, che però è appunto degnamente rappresentata dai nomi che ha fatto lei e da tanti altri ancora. Francesco Verona, buongiorno. Buongiorno, una breve considerazione, volevo un suo parere. Io amo molto il calcio italiano, seguo anche quello inglese e quello spagnolo, e devo dire, ahimè, che vedere le partite del calcio inglese e di quello spagnolo, purtroppo per noi, è tutta un'altra cosa. Vedere i giocatori in campo è tutta un'altra cosa. Noi qua continuiamo ad assistere a questi show, magari ne avrete già parlato anche in passato in altre puntate della sua trasmissione. Vedere questi giocatori che continuano, nonostante le riprese televisive, nonostante tutto, a fare a gara per finire su Striscia la Notizia, con questi show che a volte fanno, degni delle migliori scuole teatrali, e continuare a buttarsi per terra in modo così plateale, credo che sia uno spettacolo che il pubblico pagante non meriti più di vedere. Non so cosa ne pensa lei, magari ne avrei anche parlato. Io sì, qualche volta si permette, in questi anni. Io penso che il pubblico pagante sia sempre meno, non per caso. E però penso anche che questo sia indubbiamente una delle ragioni per cui, ma mica l'unica, non mi pare di cogliere questa sola differenza, o ad ogni costo questa come principale differenza tra il nostro calcio che vediamo sotto casa e quello che invece vediamo arrivarci più da lontano. Mi sembra ce ne siano molte altre che chiamano in causa i calciatori, indubbiamente, ma anche il pubblico, anche le reazioni cosiddette popolari. Ma lo sai che ieri a Genova i giocatori della Sampdoria, che già erano stati pesantemente contestati subito dopo la sconfitta e poi l'ultima sconfitta in casa e poi ancora in una circostanza successiva ieri sono stati simpaticamente presi a sputi dai loro tifosi. Ma lei pensa che in Inghilterra o in Spagna, ma a maggior ragione in Inghilterra, possa accadere niente di lontanamente paragonabile, di lontanamente pensabile a questo? Non, nemmeno per idea, no? Perché è ovvio che oggi il Manchester è fin troppo facile dire che il Manchester City oggi è una grande squadra e che quindi magari la Sampdoria potesse avere i risultati che ha il Manchester City, ma dato che è l'ultimo esempio, si è visto domenica, il City giocava in casa, ha perso un derby di Coppa in Inghilterra che era assolutamente certo di vincere contro, diciamo, pure lo scalcinato United di questo periodo, invece l'ha perso andando sotto 3-0 e alla fine c'era la gente in piedi che si spellava le mani ad applaudire, a ringraziare i giocatori che avevano perso. Ieri a Bogliasco, non so dove sia accaduto il fatto, comunque credo proprio a Bogliasco, i tifosi, anziché ringraziare i giocatori per l'impegno, questo magari no, ma insomma, anziché ignorarli, no? È poi sempre un modo per esprimere il proprio dissenso, no, bisogna sputare ai giocatori perché così imparano a perdere. Vi ricordo che 800 24 00 24 il numero per intervenire in diretta. Dopodiché vorrei assegnare il premio bontà, il primo premio bontà del 2012, che ovviamente rimane in palio ma che per il momento viene assegnato ad Andrea da Pescara, che ha scritto la seguente mail. Gentile Gigi, il gesto di De Santis, di cui si è molto parlato dopo che è stato piazzato su YouTube eccetera eccetera, è stato causato dall'amicizia tra Di Francesco, apro e chiudo parentesi, allenatore del Lecce all'epoca della partita lo scorso 3 dicembre, e Morgan De Santis, che sono ambedue pescaresi. Io li ho visti in agosto salutarsi amichevolmente in un bar di Pescara. Secondo me De Santis era dispiaciuto per l'esonero che avrebbe procurato quel gol. Ripeto, premio della bontà Livio Tempesta momentaneamente ad Andrea da Pescara, poi ovviamente tornerà in palio. Stadi vuoti, ma anche campi osceni, scrive Luca Argerà con una mail arrivata da poco. Queste sono le peculiarità più evidenti del nostro campionato. No, ce ne sono anche altre, per fortuna di segno un po' meno avvilente. Ma se parliamo di campi osceni, sì, invece ci siamo in pieno una volta di più. Io non so cosa sia costata l'ennesima rizzollatura di San Siro effettuata durante la sosta invernale. Inter Parma di domenica sera era di nuovo un campo assolutamente al limite della praticabilità e quindi Inter Milan di domenica, o Milan Inter che sia, andrà in onda su un terreno non adeguato, come minimo non adeguato al valore del match. A proposito di Milan-Inter, del derby di domenica sera, sentite che cosa ha scovato Nicola Filippone per questo martedì 10 gennaio. Sembra ieri. 10 gennaio 1909. Milano. Al campo Milan di Porta Monforte va in scena per la prima volta in campionato il derby Milan-Internazionale. La presenza sugli spalti non è propriamente quella delle grandi occasioni. Scarso fu il pubblico accorso causa la giornata fredda e pioviginosa, scriverà infatti la stampa l'indomani. Alla fine la spuntano i rossoneri per 3-2. Il gol del 3-1, che di fatto spegne le speranze nerazzurre di rimonta, porta la firma di Max Leich, un attaccante dal passaporto svizzero, la cui carriera sarà però breve. A maggio dovrà abbandonare il calcio giocato per un grave infortunio riportato nel corso di una partita amichevole proprio contro l'Inter. Una serie di messaggi, beh, anche di informazioni. Simone Ravenna domanda quando sarà presente Marco Bellinazzo. Domani, caro Simone, esattamente domani, e tra l'altro con una novità, con un argomento di stampo economico, finanziario, calcistico, di cui, non, pur essendo la notizia di ieri, non si è trovata traccia né su giornali né su radio o televisioni, e quindi credo di poter dire sin da ora che sarà un appuntamento particolarmente interessanti. Reggio Emilia, Marco scrive: oppure De Santis e l'allenatore Lecce al bar non si stavano solo salutando, così almeno vinco il premio cattiveria, scrive Marco. No vabbè, la battuta ci sta, e come. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Le volevo solo, diciamo, rettificare un po' quello che ha detto, diciamo, ieri, cioè, in merito del recupero che ha dato a Lecce Juventus. Si è detto, sabato si sta in Italia, danno molto recupero, come è successo a Lecce Juventus. Le volevo solo ricordare che hanno dato più di 2 minuti soltanto per il fatto che nel primo tempo già avevano fatto le restrizioni. E io, diciamo, ho letto un po' di sarcasmo, diciamo, grazie a questo tempo di recupero di 2 minuti, solo questo. Grazie Antonio, la qualità era di nuovo pessima. Ancora da Napoli, speriamo meglio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre interessantissima. Sì. Comunque io volevo fare soltanto presente che il tifo in generale sicuramente non è all'altezza degli altri campionati europei, però a Palermo abbiamo assistito comunque a degli applausi per il gol di Cavani. Sì. Che comunque in un clima come questo fa sempre piacere sentire. No, è vero, soprattutto è un grande passo avanti rispetto a quei fischi assordanti che accompagnarono Toni qualche anno fa, per esempio. Sì, ma no? Poi soprattutto, secondo me, bisogna sempre fare attenzione a non prendere soltanto una frangia estremista della tifoseria e purtroppo in qualche modo pensare che tutti quanti si possano comportare in questo modo. Credo che sia vero, è orribile una cosa di questo tipo, perché lo sport è qualcosa, dovrebbe essere qualcosa di molto più pulito, non si dovrebbe mai arrivare a questo tipo di gesti, e credere che comunque ci siano dei tifosi che soffrono per la situazione della Sampdoria potrebbe far bene, in modo pulito potrebbe far bene pensare a una cosa di questo tipo, perché comunque credo che ci siano. Certo, ma dalla sofferenza allo sputo penso ci sia un, no? C'è un pochino di percorso da compiere, o no? Poi ci sono altri tifosi che soffriranno per questa squadra e lo fanno in silenzio, magari supportandola ancora. Sì, ma e quindi questi che ti circondano, ti minacciano, ti sputano e cosa, tu cosa fai? Devono essere assolutamente condannati. Ah, boh. Però non vorrei che magari tutta un'intera tifoseria venga additata in questo senso. No, ma non so se capisce. Sì, abbastanza, grazie. Non, sì, però non mi sembra che cambi la questione. Cioè, c'è il tifo corretto e dolente, ma nessuno l'ha mai negato. Però c'è anche quest'altro, che sono appunto dei fenomeni sconosciuti all'estero. Chiuso. All'estero, nell'estero civile, intendiamoci. Poi ci saranno anche dei paesi più o meno alla nostra altezza, tipo. No, tipo quel 75esimo posto che abbiamo nella libertà di stampa, mi pare, attualmente come classificazione. Quindi bisogna poi sempre vedere a chi ci si può paragonare oggi, perché ogni tanto queste tabelle andrebbero poi, vanno purtroppo aggiornate. Dunque, 150.000 euro è stato il costo del nuovo prato di San Siro, la cui durata è prevista almeno sino all'inizio di marzo, eh? quindi 150.000 euro per un paio di mesi, ma soprattutto un lavoretto ben fatto, no? Un lavoretto perfetto. Si è visto un rambendo ideale, come si è visto nella partita dell'altra sera col Parma. Non c'era uno che riuscisse a stare in piedi, ma stiamo parlando anche di grandi giocatori, mica di... Vabbè. Luca da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Volevo chiedere, fare, non perché sono di Brescia o cosa, ma fare un applauso, diciamo, ai sostenitori del Brescia, che nonostante il buon avvio della squadra verso la fine, prima dell'esonero dell'allenatore, non hanno perso la pazienza come hanno fatto contro i giocatori della Sampdoria, ma da tempo abbiamo un po' di problemi con la società e diciamo ci siamo trattenuti. E quindi non li avete, per una volta non li avete menati voi bresciani? No, un premio di un bontà, perché non capisco queste cose dei tifosi della Sampdoria, gli sputi, gli insulti e tutto. Chissà cosa dovremmo avergli fatto noi, i nostri giocatori. Certo, eccolo, eccolo che lo sapevo che ci arrivava, mamma mia ragazzi. E d'altra parte apri i microfoni è come suffragio universale, qualcosa si rischia sempre, anche la democrazia è il... è il miglior modo, che è il male minore, no? È il migliore dei mali minori che si conoscono, e questo vale, ripeto, anche per i microfoni aperti. Un elogio alla tifoseria Brescia, sinceramente, e non parlo come sempre, no, di quella che soffre eventualmente in silenzio, ammesso che si abbia il diritto di soffrire per il calcio, ma parlo di quella più nota, più conosciuta, più salita in tutti questi anni all'onore delle cronache, con episodi editi e inediti assolutamente, in qualche caso davvero aberrante. Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Le volevo chiedere riguardo la Lazio, questa debacle che ha avuto sabato scorso, e come è possibile che le squadre di Rea durante il giorno di ritorno fanno sempre così male, hanno queste pressioni così forti? Anche Scusi un attimo, ma lei ha già letto la sfera di cristallo per sapere come va Rea nel giorno di ritorno, visto che domenica era ancora il giorno d'andata, oppure? Ritorno nel senso che comunque dopo la prima fase del campionato ritorno dalle vacanze, magari ritorno anche dalle vacanze, insomma, comunque nella seconda fase del campionato dopo. Magari... Ma questa è la prima, Roberto, questa è la prima fase del campionato. Hanno giocato la giornata numero 17, manca le 18 e le 19 ancora, e poi comincerà il girone di ritorno. A quel punto può darsi che Rea la contenti e che la Lazio abbia poi una flessione. Per il momento ha semplicemente sbagliato una partita in una maniera abbastanza incredibile, ma da lì alla flessione del girone di ritorno mi sembra che... come minimo mancano tre giornate. Angelo ha chiamato la Cremona, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio, scusi dalla voce. Dica. Io vorrei fare una domanda, se è possibile che mi risponda non sul calcio, sì, ma su queste partite un po' taroccate, come si dice. Se uno ha fatto una scommessa su una partita genuina e poi si accorge che questa partita qua è stata truccata, ma non può farsi valere dei soldi che lui ha pagato? No, magari la prossima, la volta dopo non scommette più, secondo me. Credo che sia una formula di guarigione particolarmente indicata, io credo. E comunque no, che io sappia non esiste il genere di rimborso per una cosa del genere, anche quando, tanto perché gli illeciti sono difficilissimi da dimostrare, e in ogni caso nemmeno quando l'illecito è stato poi effettivamente non solo consumato ma dimostrato. Che si sappia non è così. Dunque, mi pare che anche per oggi, sento da una base musicale che comincia lentamente a farsi strada, mi sembra che anche per oggi siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Vi ricordo domani quello con la collaborazione di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore per un inedito economico-finanziario che potrebbe cambiare un pochino i rapporti, vi anticipo solo questo, tra il calcio italiano e quello spagnolo, da un punto di vista economico per l'appunto. C'era Pietro Lacorte in regia, Franco Piantenide in redazione. Buon pomeriggio. A tempo di sport.